Da che parte è l'orizzonte? Ieri notte il vento fischiava così forte che non so se avessi più paura di addormentarmi o di restare sveglio. A parte il fatto che non so nemmeno che giorno sia, non ho orologi con me, non ho un telefono, nulla. Perché non li volevo con me? Non mi servono. Einstein diceva che il tempo è un'illusione. Mi sa che aveva ragione. Sai, ma forse è banale dire che da quando non ci sei sembra che il tempo si sia fermato, che un'ora equivale a un mese. La verità è che sul tempo ne ho sentite di ogni. Il tempo è la medicina di tutti i mali. Il tempo cambia le cose. Il tempo è galantuomo. Il tempo è tiranno. Con noi, certo, non è stato il massimo. Avrebbe potuto fare qualcosa di più. La cosa bella di stare qui, in mezzo al nulla, è che non c'è nessuno che mi chiede «Come stai?». Sì, lo so che è un atto di cortesia, ma ogni volta che me lo chiedono provo un forte imbarazzo nel rispondere. Vorrei dire «Come vuoi che stia? Ho perso mia madre. Ero solo un ragazzino. Mi è stata portata via da chi diceva di amarla, nel modo più brutale, dopo anni di violenze». Va da sì che così bene non posso stare. Sapete che c'è? Sto male, ok? Ogni giorno che passa io sto male, perché costantemente e incessantemente penso a lei. Penso a noi, penso a come eravamo e non siamo più, come ero e non sarò più. Ma soprattutto penso sempre, ogni giorno che passa, a come potrebbe essere la mia vita se lei fosse qui al mio fianco. Dove staremmo oggi? Probabilmente saremo qui, insieme, su questa barca. Col tempo, sì, sempre lui, che passava troppo velocemente. Giorni che sembravano ore, chiacchiere infinite, scherzi, canzoni, progetti. Non parlo quasi mai di cosa è accaduto. Sarà perché è una specie di film horror, i cui fotogrammi invadono la mia testa ogni istante. Sarà che ricordarli è un po' come riviverli. E sinceramente non ne ho alcuna voglia. O forse sarà perché l'incubo è iniziato non il giorno della tua morte, ma già prima. I giorni, quelli bui delle violenze, ti hanno allontanata da me, con forza, brutalità. Nessuna donna dovrebbe mai vivere quello che hai vissuto tu. Nessuno lo merita. E nessun bambino dovrebbe vedere ciò che ho visto io. Il senso di impotenza che provavo, l'angoscia, la paura di non poterti salvare. Ma ero poco più che un bimbo. I tuoi sorrisi, la tua dolcezza, l'allegria. Quell'uomo ci ha portato via tutto. Lui, un estraneo. Perché questo è ciò che era. Un colpo di pistola, il buio, il vuoto. Mi fa male la testa, mi tappo le orecchie. Sono chiuso in cabina, ma il vento là fuori urla. La prua della barca che sbatte sulle onde, si muove tutto, perché ho deciso di mettermi in viaggio. Cosa pensavo di fare? Dove volevo andare? Ho solo 20 anni. Non sono esperto di mare, né di barche, non conosco i venti e non so guidare una barca. Eppure sono solo in mezzo al mare, in balia di non so cosa. Destinazione, ovunque, purché fuori, lontano. A cosa serve andare lontano? Provare a fuggire dai ricordi, quando loro vivono dentro di te? È possibile conviverci? No, io non credo. Voglio tornare indietro. Non sarei mai dovuto salire su questa barca. Non avrei mai dovuto iniziare questo viaggio. Eppure, quanto ci piaceva viaggiare. Mi sembra di sentirti quando mi dicevi «Dai, prepara la valigia, muoviti, abbiamo l'aereo tra poco, l'Inghilterra ci aspetta». Già, l'Inghilterra, il nostro sogno, il nostro riscatto, la speranza di una vita migliore, felice, insieme. Il wrestling, te lo ricordi, ma quanto mi piaceva? È stato grazie agli stage del wrestling se ho potuto vedere e vivere l'Inghilterra. E tu, che mi seguivi, ti eri follemente innamorata di quel posto. Sembravi una bambina che vede le giostre per la prima volta. Eri bellissima. Ricordo ogni singolo istante di quei giorni, lì. La palestra, gli allenamenti e tu che mi aspettavi lì fuori. Proprio là, in fondo, dove c'era quella immensa distesa verde. Quanto ti piaceva sdraiarti lì, rilassarti e trascorrere ore e ore a chiudere gli occhi e riaprirli per fissare il cielo e fantasticare. È lì che ti ho fatto la foto che porto con me in questo viaggio, in mezzo al nulla e verso non so dove. I due wrestler che ti sollevavano da terra e tu che dopo una breve esitazione iniziale hai iniziato a ridere. Questa foto mi accompagnerà per tutta la mia vita. Lì, in quella immagine, nei tuoi occhi c'era la felicità, pura e semplice felicità. È così che voglio ricordarti, sono quegli occhi che vivono dentro di me ogni giorno. Croce e delizia, presente e passato. Volevi imparare l'inglese per essere indipendente e parlare con le persone del posto. Era la nostra Itaca, il nostro paradiso, la terra promessa di un futuro migliore, il nostro. Sistemiamo le cose e andiamo via, mi dicevi. Non ne abbiamo avuto il tempo. Già, ancora lui, il tempo. Penso spesso a come sarebbe la nostra vita se tu fossi ancora qui, perché io ho condiviso tutto con te, tutto. Dove saremmo ora? Come sarebbe la nostra vita? È una mia costante questa domanda, alla quale però non potrò mai rispondere. Esco dalla cabina, ho bisogno d'aria. Il ritorno alla realtà è insopportabile, eppure dovrò conviverci. Fuori è freddo, ho portato un giubbotto pesante, ma sembra che non sia sufficiente. Il vento ti penetra la pelle, ti entra nelle viscere. Io ci provo a guardare oltre la foschia, oltre le nuvole, oltre le onde, ma è come se non riuscissi a tenere gli occhi aperti. Eppure deve esserci un porto, là in fondo, da qualche parte. Deve esserci terraferma, oltre l'orizzonte. Ma da che parte è l'orizzonte?